Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Una quindicina di sedi espositive, diversi luoghi di incontro, queste sono le realtà con la rassegna estesa La pittura a Bologna nel lungo 800, 1796-1915. Allora, già da tempo, ripeto, finalmente a Bologna. Questa ne è un'ampia testimonianza. Di solito nella rubrica in mostra ci siamo spostati piacevolmente e continueremo a farlo. Ovviamente aumenta il carico di lavoro, ma il Breakfast Club c'è con grande entusiasmo per portare tutte le esposizioni a livello nazionale e internazionale in frequenza. Bologna ha avuto dei percorsi in cui ne è stata un pochettino distante, sia come qualità che quantità. Finalmente sono arrivate giovani curatrici, giovani curatori, li abbiamo già presentati, abbiamo figure per il coordinare tutto ciò, come Eva degli Innocenti, la direttrice del settore musei civici a Bologna, l'arrivo di Elena Di Gioia come delegata alla cultura di Bologna e città metropolitana, che hanno veramente fatto la differenza. Per quanto riguarda invece chi con la curatela, la professionalità, la voglia, la passione ha lavorato da tempo per costruire questi percorsi, avremo modo di sentire non solo nel giovedì in mostra ma anche in diversi last minute un approfondimento per le diverse sedi espositive. I contenuti di questo secolo nella nostra città, purtroppo sottovalutata per alcune specifiche realtà artistiche, viene riportato in maniera importante in diversi motivi di incontro, di esposizione e anche dialogica con un pubblico attento e curioso bolognese e non, ovviamente. Allora, cominciamo questa rassegna radiofonica anche con La pittura a Bologna nel lungo 800 e lo facciamo con la voce di Eva degli Innocenti, che nella conferenza stampa omnicomprensiva di presentazione per dare poi il via già da oggi dal Collegio Venturoli, domani da Palazzo Fava, poi avremo il giovedì con il Museo dell'Ottocento dove troveremo Francesca Sinigaglia, insomma tante situazioni, e finalmente a Bologna arriva un motivo di incontro per l'arte e oltretutto per poter svelare al pubblico bolognese, come ho detto, e non, una possibilità in più per le grandi esposizioni. Iniziamo con Eva degli Innocenti le nostre conversazioni legate al lungo 800 e poi torniamo in diretta per questo Last Minute. Per il Comune di Bologna con Eva degli Innocenti per questo viaggio immenso nell'Ottocento, tanto lavoro, una relazione con il Comune che ovviamente è stata fondamentale. Come si avvicina a questo viaggio? Un viaggio importante di un progetto corale di coprogettazione fra istituzioni pubbliche, private, gallerie antiquarie, collezioniste private e associazioni per la pittura a Bologna nel lungo 800, un progetto che è stato promosso appunto al nostro settore Musei Civici Bologna, che è stato ideato dal nostro Museo Civico e Risorgimento a cura di Roberto Martorelli e Isabella Stancari, che ha creato una messa in rete del territorio proprio su questo tema, cioè la pittura a Bologna appunto nel lungo 800, in una ricognizione monografica mai vista prima d'ora, insomma non era stata mai organizzata, e che permette appunto sia per ampiezza del percorso espositivo, anche della varietà dei luoghi ma anche dei temi trattati, e anche appunto dell'ampiezza del percorso che coinvolge il territorio metropolitano. Permette anche di scoprire al grande pubblico, ma così come a tanti studiosi, anche opere mai esposte prima, perché sono circa 500, di cui un centinaio mai esposte prima. Alcune opere sono state restaurate proprio per l'occasione, che provengono dai depositi di istituzioni pubbliche e private. E l'altro elemento di grande importanza è anche che abbiamo creato, attraverso tutte le istituzioni coinvolte, grazie alla collaborazione insieme a noi della Fondazione appunto Carisbo, di Ascom e del Comune di San Giovanni in Persiceto, che sono appunto le altre enti e istituzioni che hanno collaborato con noi proprio per la creazione del progetto, ha un public program, quindi di eventi, di conferenze, però anche di momenti performativi e soprattutto un public program che sia adeguato a tutti i target di pubblico, quindi anche pubblico familiare e bambini avranno le loro attività didattiche e i revocatori dell'800 un 800 APS. E da non bolognese, ma che ha portato a Bologna un grande valore aggiunto di ispirazione e di organizzazione artistica, Eva, cosa puoi dire per invitare i non bolognesi a questo percorso? Ma direi appunto che in realtà questo progetto ci fa vedere come Bologna sia sempre stata un grande crocevia d'Italia ma anche d'Europa, quindi non soltanto per i bolognesi ma per la storia d'Europa, e con pittori e artisti che non sono stati importanti solo per l'identità territoriale ma internazionale. Quindi una mostra per tutte e per tutti. Sì. Grazie e buona giornata. Grazie. Porta al tempo. Allora, la programmazione per portare il lungo 800 a Bologna nel tempo in cui le esposizioni verranno proposte è legata alla rubrica in mostra. Come vi ho detto, ne è stata data una presentazione in conferenza stampa estesa. Questo verrà portato proprio nel giorno dell'apertura ufficiale, cioè giovedì 21 marzo, domani al Collegio Venturoli. Poi seguirà una presentazione per il Museo dell'Ottocento in Piazza San Michele a Bologna, chiaramente nel centro della nostra città, grazie a Francesca Sinigaglia. Per quanto riguarda la curatela del lungo 800 nel senso esteso, Roberto Martorelli, con un lavoro sisifeo affiancato a Isabella Stancani, ha dato motivo, come ho anticipato nell'apertura di questo esteso last minute, a sua volta di crescita per la nostra città. E non sono ironico quando dico finalmente Bologna non avrà più nulla da invidiare a Palazzo Roverella, a Palazzo Zavarella per Padova, non avrà più nulla da invidiare per altre sedi espositive come Palazzo dei Diamanti. Era una parte che mancava in maniera importante per la nostra città, è arrivata grazie alle organizzazioni e grazie allo studio di approfondimento di diversi curatori che già presenti, già abbiamo portato in frequenza queste voci con il Breakfast Club, ben contenti di poter dare una conferma di percorso e di studio con questa ampia rassegna, la pittura a Bologna. Di Mark Copland che stiamo ascoltando, l'abbiamo sentito al Torrione, quindi ne faremo un ascoltato per voi al Jazz Live di venerdì. Il disco è Someday, con un quartetto d'eccezione. Stiamo ascoltando il sax di Robin Drain, che è stato veramente un sideman protagonista, si può dire, nel concerto estense. Avremo modo di ascoltarlo e di farne recensione all'interno del Jazz Live. Intanto il nostro last minute procede per un appuntamento invece in musica con Angelica dal San Leonardo, per una coppia di cui un elemento, anzi entrambi, abbiamo già avuto modo di conoscere musicalmente, il grande Rob Mazurek e il grande Fabrizio Puglisi, sempre impegnatissimo in motivi di ricerca, saranno per una 3 giorni che parte da domani, mercoledì 20 marzo, per la rassegna Angelica. A breve, dalla voce di Fabrizio Puglisi, ascolteremo appunto i contenuti di questi incontri nella seconda parte del Last Minute di oggi. A tra poco.